cosa però sempre più difficile ora, a causa del silenzio delle istituzioni e dei finanziamenti che fanno sempre più fatica ad arrivare. Noi abbiamo un atteggiamento da sempre in questa scuola, che è un clima di, come devo dire, di accoglienza, di fare squadra, di sentirsi insieme attorno a un problema e che sai che non sei solo. È proprio, come devo dire, un DNA della nostra scuola. E fortunatamente questo consente ai ragazzi di sentirsi a proprio agio sempre, quindi di poter sfogare, di poter parlare. Per la verità noi ci rendiamo conto, adesso che poi tra l'altro da una settimana, da 4 giorni stanno ritornando, perché poi, voglio dire, ci avete aiutato, i mass media servono, i giornali, le televisioni servono, perché alla fine hanno smesso di sparare da 7 giorni. E allora ora che stanno ritornando riescono anche a sentirsi più sereni, a dire forse ce l'abbiamo fatta, forse serviamo, forse è utile che ci sia una partecipazione alle cose. Insomma, ci rendiamo conto che ancora è un luogo, la scuola, dove loro si sentano accolti e protetti. Il dramma forte è che la scuola quest'anno chiude presto, perché sono finiti tutti i finanziamenti, la regione non autorizza più nessun progetto, non ho avuto un progetto finanziato delle scuole a rischio, perché Forcella non è più una zona a rischio, evidentemente è una scuola poco, come devo dire, pericolosa, per cui le attività che prima mi consentivano un'apertura pomeridiana, a volte serale, della scuola, adesso mi costringono a chiuderla prima, e quindi questo, come devo dire, è un grave problema, ma grosso problema. Cosa facevate prima in classe, al pomeriggio, a scuola? Sì, noi avevamo le attività che continuavano dopo, ed erano attività, come devo dire, di recupero scolastico, di potenziamento, di teatro, di attività sportiva, di computer, di lingua inglese, e questo ci consentiva un progetto che era finanziato prima dalla regione o un progetto finanziato dal Ministero sulle aree a rischio. E la regione non ha più attivato il progetto di scuole aperte e il Ministero ha ritenuto che Forcella non è una scuola a rischio. Nonostante tutto, ma io credo che l'elaborazione, cioè l'autorizzazione di progetti non è… io so di essere molto dura, però non credo che c'entri proprio nulla l'abilità di una scuola di tenere in campo azioni, di un aumento delle iscrizioni, quindi anche, come devo dire, di un'efficienza del servizio, no? Non tiene conto di questo, ma terrà conto di ben altri meriti, vicinanze politiche, condivisioni di ideali diversi, non glielo so dire. Io sono molto avvilita, perché ritenere Forcella non una scuola in un'area a rischio è come, non lo so, mi sembra che siamo in un posto, in un paese dove non ti vengono riconosciute delle difficoltà. Poi, per carità, i miei alunni, ma la scuola è in un quartiere a rischio. E quindi tenere i bambini e i ragazzi più possibile a scuola era comunque una cosa molto importante? Ma moltissimo, certo. Ma non lo dico io, lo dicono i genitori, lo dice il più grande, insomma, non mi sembra di scoprire le cose, che se tu li tieni in un luogo dove deputati, dove loro non hanno a volte nemmeno le stanzette nelle case, no? Si riuniscono forse a casa di qualcuno, ma non hanno la cameretta dove studiare. Allora dove tu hai una scuola che ha laboratori, perché se abbiamo una scuola con un edificio bellissimo, per la verità siamo fortunati, perché nel centro storico di Napoli è difficile trovare una scuola che ha questa struttura, ma è una scuola con palestra, laboratorio con teatro, con 2 aule informatiche, con un laboratorio di ceramica, con spazio morbido per lotta libera e arti marziali, cioè con la palestra buona, con 2 aree all'aperto, quindi tutto sommato è un edificio nel quale loro si sentono a casa loro. Più di una volta mi hanno chiesto l'utilizzo di un'aula per fare dei loro lavori e vengono il pomeriggio qui liberamente, come se fosse la loro stanza per lo studio. La parte sana del quartiere di Forcella chiede dunque normalità. Normalità che significa per un ragazzo e per un bambino poter andare a scuola senza il timore di finire ammazzati, proprio come è successo ad Annalisa quel 27 marzo 2004. È stato proprio questo che io ho chiesto alle forze dell'ordine, un coordinamento per evitare che ci possa essere un'altra Annalisa Durante. Mi fa pensare che non si può vivere di ricordi di morte per ottenere dei risultati. Mi fa pensare che c'è bisogno di un'attenzione costante in una città, in un quartiere, e mi fa pensare che è un paese che ancora, come devo dire, ha bisogno di momenti forti, di scontri duri per ottenere qualcosa. Bene, tutto finisce qua questa puntata di Italia in Controluce, un programma, vi ricordo, con il coordinamento di Nele Biacchessi. Potete commentare i servizi che sono andati in onda o scriverci le vostre storie controluce@radio24.it. Buona giornata.